volevo fare i complimenti per ad Andrea, all'altro Andrea, chi comunque sta dietro al progetto, che secondo me ha un'importanza, un significato che vanno anche al di là del vino che adesso dovrò assaggiare sicuramente, su cui mi complimenterò dopo. E nel senso che nel contesto palestinese di oppressione attuale, cioè attuale, che poi è quello che continua da 60 anni, ma in questo momento è particolarmente teso perché mancano le speranze, penso, comunque è molto difficile, un'operazione che è legata anche alla cultura del territorio, che è legata alla terra, secondo me è molto significativa. Poi valorizzo, secondo me, l'aspetto che è legato alla secolarizzazione della società, nel senso che poi palestinesi ci sono sia musulmani osservanti che non osservanti, che cristiani osservanti che non. Tutto quello che può essere un approccio comunque alla gioia di vivere, al vino come strumento di socialità, secondo me è significativo perché ci sono tanti che potranno poi scoprirlo e berlo. Oltre all'aspetto economico, che non è scontato, perché creare lavoro in Palestina è importante, è fondamentale, cioè è uno strumento di prima indipendenza sul quale poi sul quale poi si può basare una futura autonomia. Però volevo anche fare una domanda un po', intanto puntualizzare, sicuramente l'avete detto, io mi sono assentato, però che il video che è corretto, ma immagino delle dinamiche, a un certo punto dice la seconda intifada ha reso difficile i trasporti, eccetera. Non è la seconda intifada che ha reso difficile i trasporti, cioè è l'occupazione israeliana che si è particolarmente, cioè che semplicemente ha cambiato forma a partire dalla reazione popolare che era la seconda intifada, ma questo l'avete detto, però ci tenevo a ridirlo, insomma. Però volevo fare anche una domanda un po' così, immaginando una circolazione del vino, magari con un po' di fortuna, in Italia, no? Negli spazi sociali, perché secondo me potrebbe, e sarebbe una cosa doverosa. E scusate la franchezza, però i proventi del vino, a chi vanno? All'ordine della Chiesa? Ai lavoratori sotto forma di retribuzione, e non è poco, però volevo chiedere quello che posso immaginare chiedano pure a me se dovessi proporlo, se hai capito, scusate.